Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Non si può votare all'unanimità una cosa e poi, coperti dal voto segreto, in 100 farne un'altra. Non è possibile, non è tollerabile, è una cosa irrispettosa del ruolo di parlamentare, irrispettosa nei confronti delle persone che hanno eletto il singolo parlamentare. Una parte politica non è stata in grado fino adesso in Parlamento di garantire di mantenere una parola data per due volte, una volta anche alla controparte politica e una volta addirittura a se stessa, con un'acclamazione di Romano Prodi che poi è stato impallinato nel voto segreto dell'Aula. Se si rompe la coesione della società, è in pericolo la democrazia, ogni azione pubblica è paralizzata. I sistemi organizzati su una persona sono un tumore che rende la democrazia ingessata, inefficace, impotente. È necessario in ogni democrazia ragionare per compromessi. Bisogna prendere atto delle diverse visioni. Voi che sporadicamente vi interessate a quella che è vicenda politica, vi state rendendo conto di cosa stia accadendo? Non è qualcosa di transeunte, passeggero, determinato da varie circostanze di crisi. No, è tutto un modello nel quale abbiamo creduto, che risale a molto molto molto tempo fa, di democrazia, che in questo momento sta scricchiolando. Beh, è terrificante, spaventoso che scricchioli la democrazia, soprattutto scricchioli il sistema di rappresentatività dei cittadini. Da chi ci sentiamo rappresentati? E come deleghiamo i nostri rappresentanti? Attraverso quale sistema? La chiamata di massa in piazza a protestare? Le istituzioni che sembrano inventarsi nuove regole per poter ancora mantenersi in piedi? E tutto ciò che viene mostrato come appartenente alla contemporaneità? Essere rappresentati attraverso uno strumento elettronico e digitale, noi tutti potremmo votare attraverso il nostro smartphone, il nostro tablet, esprimere il nostro parere. Questo sorta di cortocircuito, mi sembra di averlo colto in una notizia che ho visto fuggevolmente fra le tante questa mattina, quando il direttore di un telegiornale della Sette, Enrico Mentana, uscendo dalla conferenza stampa di Beppe Grillo, è stato fermato, aggredito verbalmente o semplicemente ripreso da una signora, gli ha detto: questa volta dite la verità, e lui l'ha mandata a fanculo, gli ha detto semplicemente questo. Su questo si è creata una sorta di dibattito in rete, in cui anche in rete deve rispondere Mentana. Su Twitter si stanno incrociando i tweet: vergogna, giornalista che ha insultato la povera signora, non si fa così, era una cittadina che diceva lecitamente di fare il tuo dovere. Lui dice: ma povera cittadina, se il vostro lessico è questo, se la parola chiave, la parola d'ordine è il vaffa, ho risposto con un vaffa a una persona che mi diceva quale fosse il mio mestiere, faccio da tanti anni. Questo è soltanto uno dei tanti esempi, ce ne potrebbe essere tantissimi. Un Presidente della Repubblica che viene rieletto quando già aveva sigillato gli scatoloni per andarsene in vacanza con la moglie, anche questo sembra singolare, e riapparire di antichi fantasmi che sembrano mai sepolti da decenni, e allo stesso tempo la novità pulsante, la novità palpitante, le folle che riempiono le piazze e le folle che inneggiano su Twitter e su Facebook. Cosa sta accadendo? Cerchiamo di capirlo questa mattina. Professor Aldo Schiavone, buongiorno. Buongiorno. Non è che chiedo a lei la soluzione di tutto, ma lei ci può aiutare, che penso che aggredire i momenti di incertezza attraverso metodo e disciplina sia forse la forma migliore. Ricordo che il professor Schiavone è docente di diritto romano presso l'Istituto di Scienze Umane, autore di Non ti delego, perché abbiamo smesso di credere nella politica, dalla crisi dei partiti al sogno della democrazia diretta, Rizzoli editore. Ecco, in questo momento c'è un difetto di delega, ma questa delega quando era stata data? Su quale basi storiche si poneva la delega che gli italiani o in generale le democrazie hanno fatto nei confronti dei partiti? Ecco, se pensiamo in generale alle democrazie, dobbiamo dire che questo sistema che mette insieme il metodo democratico e rappresentanza è un sistema che è nato nell'età delle grandi rivoluzioni europee ed americane, quindi tra la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, diciamo, e poi si è sviluppato nel corso dell'Ottocento. Ed è un sistema ibrido, con una intrinseca ambiguità, perché mette insieme questo meccanismo della rappresentanza che ha origini addirittura medievali, che non hanno nulla a che vedere con la democrazia, e il principio invece della sovranità popolare, che dovrebbe essere una sovranità diretta, che è invece l'anima delle democrazie moderne. Questo sistema, questo ibrido, in qualche modo ha tenuto in tutto l'Occidente, fin quando ci siamo trovati di fronte a società molto più lente, molto più povere di informazione della nostra società, in cui l'unico modo per il popolo di contare politicamente era di farlo attraverso dei suoi rappresentanti organizzati nei partiti. Da alcuni decenni non è più così, e questo è un problema non soltanto italiano, ma è un problema di tutte le democrazie occidentali, perché le società sono diventate così veloci, le nostre vite sono diventate così veloci e noi siamo così ricchi di informazione, che questo sistema settecentesco e ottocentesco di delegare altri a rappresentarci, i quali poi gestivano questa rappresentanza in modo, come dire, totalmente irresponsabile rispetto a chi li aveva in origine delegati. Però nessuno aveva strumenti di controllo così costanti come oggi, quindi esatto, si fidavano. Sì. Quindi dobbiamo inventare qualche cosa di diverso. Un mio illustre interlocutore ha detto una democrazia semidiretta. Ecco, questa formula mi piace. Dobbiamo inventare un sistema democratico che leghi ad alcune forme di rappresentanza, di cui ancora non possiamo fare a meno, sia chiaro, una capacità di controllo e di presenza anche telematica, anche via web, non lo so, bisogna costruire una serie di strumenti che consentono al popolo di riappropriarsi in parte di questa sovranità, che non c'è più bisogno che venga delegata, che può essere esercitata in modo diretto. Professore, lei ha detto che questo è un fenomeno che non investe soltanto l'Italia, ma tutta certo. Europa. Perché c'è una fattispecie così specifica però nel nostro paese, in cui in questo momento abbiamo questa impressione di sgretolamento? Sì, perché nel nostro paese abbiamo un sistema costituzionale che prevede, unica fra le grandi democrazie dell'Occidente, un parlamentarismo puro e un bicameralismo perfetto. Un parlamentarismo non corretto da nessuna forma o di premierato o di presidenzialismo, come accade in Francia, come accade in Inghilterra, come accade in Germania, come accade negli Stati Uniti. E questo si è verificato in Italia per ragioni storiche. Noi abbiamo tutte le altre democrazie dell'Occidente come sistemi nei quali il parlamentarismo è corretto o da un premierato forte o da un presidenzialismo o da un semipresidenzialismo, come nel caso, diciamo, francese. L'unica cosa è, avevamo una paura ai tempi dei padri della Costituzione di ritornare nelle fosche caligini della dittatura, quindi siamo tenuti lontano da questo Mussolini, del fascismo, e quindi di un premier, di un presidente o di un capo del governo il quale in qualche modo, come dire, si arrogasse poteri extra costituzionali in un rapporto diretto con il popolo e ripetesse il fascismo, pericolo che in quelle forme non c'è più, ora sono ben alti i pericoli che minacciano la nostra democrazia, primo dei quali è una disaffezione di massa, come si sta verificando adesso. Quindi da noi, chiudo il mio discorso, questo problema generale che riguarda tutte le democrazie dell'Occidente, noi lo viviamo in modo particolarmente acuto e dirompente, come diceva lei, per queste ragioni storiche. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto, docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Con Andrea, non più tardi di una settimana fa, avevamo già affrontato questo problema, lo avevamo lambito, lo avevamo toccato, oggi entriamo più nello specifico. Ha detto il professor Schiavone, Andrea, che occorre trovare dei correttivi a questa nostra forma di rappresentatività non perfetta. Rispetto agli strumenti informatici che in questo momento sembrano rappresentare una speranza, a volte anche sovrastimata, cosa hai da aggiungere? Allora, sicuramente l'elettronica permette maggiore partecipazione, quello che ci manca a volte sono gli strumenti giuridici più che quelli elettronici. Peraltro c'è un istituto diffuso soprattutto nei paesi di origine anglosassone che si chiama recall, la richiamata, nel senso che un candidato eletto, se si raccolga un certo numero di voti con una specie di referendum indetto in modalità previste, l'eletto può essere richiamato, cioè può essere destituito nel corso del suo mandato. Ecco, è chiaro che gli strumenti elettronici possono facilitare l'uso, possono facilitare l'implementazione di strumenti come questo genere. Come abbiamo detto più volte, ormai l'elettronica, gli strumenti informatici non sono più il problema, nel senso che abbiamo strumenti che sono abbastanza sicuri, abbastanza affidabili a poter essere usati per fare cose di questo genere. In molti casi manca la cultura per fare queste cose, la capacità da parte degli utenti di utilizzarlo e quando si ha a che fare con cose giuridiche, anche le norme che permettono di fare queste cose, che sono secondo il primo elemento, la cosa più importante da tenere in considerazione. Sentiamo Sandra, prima ascoltatrice, 800 24 00 24. Questa mattina avete piena facoltà, diritto, ma soprattutto ve lo chiedo perché sono io molto interessato a esprimere il vostro parere. Quale può essere il correttivo che si augura il professor Aldo Schiavone rispetto a un sistema di rappresentatività dei partiti che ci sembra ormai fare acqua da tutte le parti? Sandra, buongiorno. Pronto, buongiorno dottore, salve. Io salute. La ringrazio e vabbè, la seguo da anni. Io sono d'accordo con il dottor Schiavone, però aggiungerei solo una cosa: quello che manca è proprio la volontà. Cioè, nel senso, io i miei 44 anni con un semplice smartphone riesco a fare delle cose che non avrei mai immaginato forse mesi fa. Me ne elenchi qualcuna così capiamo, perché sennò... Cioè, io ho votato per il presidente, il nome del presidente della Repubblica sul sito di Grillo, un nome che proprio, cioè, io, chi ha votato lei? Votato. Si può dire? Rita Borsellino, quindi non c'era nessuna indicazione, totalmente un mio pensiero. A lei sarebbe piaciuta, però pensava fosse giusto. Io penso che anche tutti gli altri avrebbero potuto fare questa cosa, hanno tutti i siti web, avrebbero potuto chiedere un'indicazione ai propri elettori, ai propri simpatizzanti. Cioè, manca forse quello che manca è la volontà non politica, la volontà di far partecipare i cittadini. Avrebbero potuto semplicemente chiedere dateci un parere su Prodi, dateci un parere su Napolitano. Ma chi ha tutti in assoluto o soltanto quelli che hanno uno smartphone lo sanno usare? Ma il PC, ormai ci sono degli strumenti, io sto scoprendo delle cose, è veramente un mondo nuovo, è tutto che si fa con questa sorta di... Ma non trova, Sandra, che quello che dice lei ha un suo fondo di riflessione senz'altro, ma in questo momento, nell'esatta situazione che ha il nostro paese rispetto alla cosiddetta alfabetizzazione digitale, sarebbe lievemente discriminatorio, si alzerebbero tutti improvvisamente, quelli dicono ma io non ho nessun tipo di familiarità con questi strumenti, allora è una sorta di chiamata elitaria a esprimere il parere, soltanto quelli che sanno muoversi tranquillamente nel web 2.0. Vabbè, ma anche questo è limitato, perché per esempio per la raccolta delle firme tutti i partiti si sono attivati con tutte le sedi possibili e immaginabili, anche in paesi che forse neanche sono raggiunti dalla televisione, e quindi lì avrebbero potuto, che ne so, chiedere venite a dare un vostro nome, un vostro parere, cioè il modo si trova, io credo. Come quindi secondo lei la strada è, diciamo, di accentuare la possibilità di una partecipazione diretta, almeno come dal punto di vista di esprimere il proprio parere attraverso gli strumenti informatici. Ma il modo si trova, io credo che comunque una maniera in ogni caso si trova, e non è solo partecipazione e democrazia liquida come dice lei, è proprio una non l'ho detto io, l'ha detto Grillo, io non l'ho detto. Non è solo questo, è solo proprio una partecipazione, è una situazione proprio che potrebbe essere... Il professor Bauman parlava di società liquida, ma diceva appunto, è un po' superato, ma è passato tanto tempo. Ma pure su strumenti, su cose molto più difficili, come l'intelligenza proprio partecipata. Noi prendiamo esempio, noi prendiamo cose che ci vengono da altre cose tramite, sì, forse è vero, tramite la rete alla fine. Se bisogna fare una cosa si prende ad esempio qualche cosa anche da altri paesi, quello che dice sempre lei, lì già ce l'hanno, funziona bene, andiamo a vedere che cos'è, andiamo a vedere se la possiamo... Lei è un entusiasta, Sandra, io non voglio fermare il suo entusiasmo. Francesca. Buongiorno Nicoletti, grazie dell'opportunità. E volevo dire, è molto... E guardi, se avessi tempo farei parlarne anche 50 di persone, nei limiti del mio tempo cerco di articolare per quanto possibile. Dica la sua. Sì, è molto interessante la discussione sui mezzi. Io vedo però negli ultimi tempi che manca molto un punto che è centrale, cioè far votare bene chi, perché le persone non siamo preparate al voto. Cioè, se praticamente io sento in giro per strada le persone tra un gatto e vince e l'altro al bar, tra un grappino e l'altro fanno grandi sprologhi di politica, e visti i risultati da un po' di tempo viene a pensare dovremmo fare un esame. Quindi va ripensato il concetto di democrazia, di suffragio universale. Esatto, posso votare soltanto quelli che hanno strumenti culturali e etici. Sottoponiamoci tutti a un esame di cultura generale, l'ha detto qua e Battiato quando ha detto la provincia è ignorante. Quindi si torna ancora prima al concetto di democrazia generale che abbiamo sempre abbracciato. Esatto, di pubblicità, plagio in tutti i modi, per la mia ignoranza è meglio che, diciamo, prima mi formo. Quindi gli ignoranti non devono votare. No, lo spiego, questo è il suo pensiero. effettivamente tra me e me lo dico così a voi. No, ma guardi, non abbia vergogna, mica è una bestemmia, lei esprime un pensiero. Dice, sì. Trovare una forma di voto riservato ad alcune elite che abbiano gli strumenti per definire quelli che sono i rappresentanti per governare. Professor Marco Mancarella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, il professor Marco Mancarella in realtà è l'unico esempio vivente di democrazia digitale, di espressione digitale del voto che esiste in Italia, perché per quanto se ne dica, per quanto ci si illuda che attraverso una preferenza per un Presidente della Repubblica che si fa attraverso lo smartphone come la signora o come la classificazione di definire diritto al voto soltanto attraverso strumenti digitali, c'è solo un piccolo esempio ma concreto di tentativo, di prova di strumenti digitali applicati all'espressione del voto. Di cosa parliamo, professor Mancarella? Sì, le posso riassumere velocemente. In Italia siamo un po' all'anno zero in tema di voto elettronico, infatti parliamo proprio dell'atto pubblico del votare, quindi non tutti quegli strumenti di, per esempio, online deliberation, di deliberazione a mezzo online come alcuni movimenti politici stanno utilizzando, ma stiamo parlando proprio dell'atto pubblico del votare. Noi stiamo portando avanti una sperimentazione giù nel Salento, a mio modo di vedere probabilmente l'unica del genere, cioè stiamo attuando un trasferimento tecnologico dal Messico, che è un paese avanzato sotto i profili del voto elettronico, al Salento. Stiamo utilizzando l'urna elettronica messicana, testata oramai con valore legale proprio a luglio del 2012, nel Salento, in due piccoli paesini, Martignano e Melpignano. Stiamo tentando di dimostrare che a bocce ferme dal punto di vista legislativo, quindi senza neanche avere la necessità di modificare le norme in Italia in tema di voto, perché è un referendum perfettamente ammesso da due comuni che vogliono decidere se accorparsi o no, qualcosa del genere. Sì, è un referendum consultivo. Il progetto è internazionale, fa parte anche la prefettura del partenariato, il Ministero degli Interni ci ha dato uno specifico nulla osta a novembre. Quindi siete testati dal Ministero degli Interni, non è un'iniziativa che sono presi Melpignano e l'altro comune? Assolutamente no. Però è un laboratorio interessante, perché se funziona può essere esteso anche a forme più complesse di voto. Assolutamente, il fatto è che consta il progetto di due fasi, questa prima fase che è di test anche per la socializzazione della cittadinanza al voto elettronico, perché è una novità, e la seconda fase invece sarà tarata sugli aspetti legali, cioè effettueremo probabilmente un altro referendum con puro valore legale, con un test saggiato dagli stessi dirigenti ministeriali che poi decideranno se estendere o meno la sperimentazione in Italia. Quello che volevo sottolineare però è che parliamo di seggi elettorali presidiati, cioè la cittadinanza va a votare normalmente, semplicemente non usa più la carta ma usa un'urna elettronica. E quindi il vantaggio è che, immagino, non ci sono più questi strumenti ambigui come la matita copiativa, le schede che si può sbagliare. Anche il conteggio del voto diventa inequivocabile a questo punto di vista? Assolutamente sì, il contenzioso elettorale non esisterà più perché brogli o schede nulle. Cioè, nessuno può disegnare l'insulto, il pisello sulla scheda per sfregio, si può votare o non votare? Assolutamente, ma consideri anche il pericolo sociale dell'incertezza del voto che a volte si ha quando non si sa con certezza se uno è stato eletto oppure no in un preciso collegio. In questi casi non ci sono dubbi. E i risultati in teoria possono essere istantanei, in progress. Le dico una cosa abbastanza interessante: in Messico sono istantanei, cioè su uno smartphone lei secondo per secondo durante tutta la giornata elettorale può avere i risultati in tempo reale, da noi non è possibile. Ecco, se questo lo sapesse Grillo già si attizzerebbe, ma io noto un paradosso però. Noi abbiamo parlato lungamente nei giorni passati di stallo messicano, è il famoso duello a tre in cui nessuno può sparare se no tutti ammazzano tutti, che è la situazione rappresentativa dello stallo politico in questo momento, tre forze politiche che si bilanciano tutti con la pistola puntata e nessuno si muove. Ma come mai proprio dal Messico viene l'esempio esempio di democrazia digitale? Questo rientra in un discorso di probabilmente scienza politica, cioè oramai nel mondo i cosiddetti BRIC o BRICM o BRICS come dir si voglia, cioè i paesi emergenti come Brasile, Russia, India, Messico eccetera, sono i paesi che più stanno puntando sulla democrazia elettronica perché vogliono affermarsi nel settore, perché hanno le possibilità di farlo. Le dico, in Messico c'è la Silicon Valley della Motorola, esattamente nello stato di Jalisco, e lo stato di Jalisco è lo stato nel quale la sperimentazione dell'urna è partita, quindi c'è proprio un mix di volontà politica e capacità tecnologica. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, stiamo osservando le possibilità di uscita dall'impasse politico. Ci è stato chiarito quanto il nostro sistema dei partiti, come noi almeno intendiamo la nostra rappresentatività attraverso i partiti, è un sistema che forse è un po' anziano rispetto all'articolazione della società, che oggi ha molti più strumenti di osservazione ma non altrettanti strumenti di controllo in progress di quella che è l'attività dei partiti. Abbiamo visto che in realtà la democrazia elettronica, che si auspicava un'ascoltatrice, possono votare soltanto quelli che hanno la familiarità con gli strumenti digitali di partecipazione e gli altri si attaccano, più o meno era questa la sintesi. Abbiamo visto che in realtà l'unico esempio, l'unico test che si sta facendo dell'uso di strumenti elettronici digitali nell'espressione del voto è in Salento. In Salento si fa una piccola prova in un referendum consultivo di democrazia elettronica. È la cammino ancora lungo, molti si scandalizzano, se dobbiamo prendere esempio dal Messico siamo messi bene. Innanzitutto in Messico siamo un po' in apprensione per il terremoto che c'è stato questa notte al largo della costa del Messico. Hanno tremato i palazzi a Città del Messico, ma non so ancora nulla di preciso, però non vedo perché non ci può venire proprio dal Messico un'idea. Stavo parlando con il professor Marco Mancarella, che è un professore di informatica giuridica e informatica della pubblica amministrazione, ha perso il corso di laurea in scienze politiche all'Università del Salento e è proprio il coordinatore, il direttore, il vice direttore del laboratorio di e-government che sta appunto lavorando su questa idea di Unisalento .it, di uno strumento di rappresentazione digitale del voto attraverso un'urna che viene proprio dal Messico. Sentiamo prima alcuni ascoltatori, poi ritorno con gli ospiti. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, io volevo il mio piccolissimo contributo. Ho l'impressione che tutta questa storia sulla tecnologia e sulla connessione diretta grazie agli strumenti elettronici, pensiamo al Twitter, l'importanza che ha assunto in questi ultimi anni, in realtà una grandissima bolla. In sostanza, Twitter è un giochino, non ha nulla, non rappresenta nulla. Esatto, tornando proprio al concetto della rappresentatività su cui sta ragionando stamattina, bastava la legge elettorale precedente a questa, che aveva i collegi in cui gli eletti potevano poi andare a rispondere nelle assemblee sul territorio con le persone per avere una connessione molto più forte. Cioè, quello controllo c'era quando scendevano sul territorio con i loro elettori, esatto, rinnovavano la fiducia. Sì, anche che, diciamo, elargivano quelle che erano le prebende, i piaceri, le marchette, certo, con cui si erano conquistati il collegio, anche c'è da dire questo. Esatto, però anche questo psicodramma, lo chiamo io, del Partito Democratico degli ultimi giorni, i deputati che hanno votato contro le indicazioni della segreteria hanno detto di aver ricevuto una serie di email, di commenti Facebook, di Twitter da quella che era la loro elettorale. Non so, avevo visto, mi sembra che è Fioroni che fa vedere a Bersani il suo voto. Guarda, io ho votato per Prodi, con il suo telefonino aveva fatto la foto della scheda. Sì, siamo in un momento un po' bassi. Sì, no, più bassi. Il momento è la fessa in mano alle creature, dicono, è il momento in cui non si sa bene, tutti vogliono sentirsi moderni, tutti vogliono sentirsi in linea con i tempi e per essere in linea con i tempi bisogna stare cavalcare gli strumenti digitali. Lorenzo. Sì, buongiorno Nicoletti, mi sente? Come no, benissimo. Buongiorno, senta, no, io volevo soltanto dirle che dal 2002, quando ho preso la direzione dell'Ispettorato Carte e Valori al Ministero dell'Economia, abbiamo cominciato ad occuparci della carta d'identità elettronica, che tra le altre cose cose prevedeva per l'appunto la possibilità del voto elettronico. È una bella idea, ma che fine ha fatto? Ecco, il problema è che la cosa si è arenata prima sugli aspetti dell'aspetto, sugli aspetti economici. Nel 2005 ho preparato una piccola norma che è stata poi inserita in un cosiddetto decreto mille proroghe, e quindi l'aspetto, diciamo, del finanziamento dei documenti elettronici è stato superato. E quindi qual è stato il problema poi? Il problema che si è verificato dopo è stato che si sono scatenate varie iniziative da parte delle regioni in particolare e anche dell'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fare la carta sanitaria per conto proprio. Le regioni si sono inventati la cosiddetta carta nazionale dei servizi, che non si sa bene cosa dovesse fare, e quindi alla fine c'è stato questo fiorire di iniziative non ha portato all'emissione. Oddio, c'è da dire però, Lorenzo, c'è un paradosso che è tipico del nostro paese. La carta sanitaria è rimasta, è l'unico esempio elettronico documento. Se un ragazzino andasse a comprare le sigarette a un distributore automatico o andasse a comprare oggetti inequivocabili in un altro distributore automatico, deve infilarci la carta sanitaria per comprare delle cose in cui c'è scritto il fumo uccide e danneggia la salute, perché non c'è altra forma in questo momento di identificazione digitale del soggetto. Andrea Rossetti, cosa ne pensi? Sì, bisogna distinguere le carte di servizio dalle carte ovviamente di identità. Peraltro avrebbero potuto essere semplicemente un passo per portare al voto elettronico. A me piace ricordare il fatto che in realtà una delle prime sperimentazioni europee sul voto elettronico è avvenuta nel 2001 in Italia, ad Avellino, per il referendum sulla devolution. Noi siamo stati in realtà per alcuni anni veramente i primi in Europa su queste cose. Tutto poi è morto nel 2006, quando la sperimentazione condotta per le elezioni che si tengono la primavera di quell'anno fu accusata di aver generato brogli, accusata con un dossier insomma francamente privo di ogni fondamento. Il risultato però del dibattito, dello pseudo dibattito che ci fu nell'opinione pubblica, fu che Giuliano Amato, allora ministro degli interni, bloccò qualunque altra sperimentazione di voto elettronico in Italia. In questo momento stai dando un colpo al cuore ulteriore a quanti temono un possibile governo Amato. Quindi, Amato è il nemico del voto elettronico. Ma non è nemico del voto elettronico, adesso poveretto, io l'ho citato anche oggettivamente. Vorrei essere un poveretto come lui. Però il problema è che effettivamente i politici molto spesso non sono in grado di giudicare queste cose. Qui alla fine il ministro di allora è stato tirato dentro un discorso dell'opinione pubblica e ha dovuto fare un po' torto collo questa scelta. Il problema è che la nostra classe politica spesso non è preparata per capire quello che i vantaggi e gli svantaggi. Allora fermo un attimo, Andrea, adesso facciamo una domanda allora al professor Aldo Schiavone, ricordo che è docente di diritto romano all'Università di Roma e ha scritto per Rizzoli Editori: non ti delego perché abbiamo smesso di credere nella loro politica, dalla crisi dei partiti al sogno della democrazia diretta. Professor Schiavone, qua ci troviamo però di fronte a un paradosso: una classe politica non è capace di interpretare e di legiferare sugli strumenti di partecipazione elettronica, e una popolazione che in realtà non ha le competenze in tutte le materie economiche, finanziarie e via dicendo per potersi poi esprimere direttamente. Qual è il punto di uscita? Dunque, intanto vorrei dire che il problema non è soltanto della cosiddetta democrazia elettronica. Gli strumenti informatici sono uno strumento prezioso e importante, ma il punto è un punto, diciamo, politico e di aspetto costituzionale. Ci sono molti altri strumenti che non hanno nulla a che fare con l'elettronica e con l'informatica, ma che sono giuridici e politici, che si potrebbero introdurre per riavvicinare sovranità e popolo. Per esempio, come è stato ricordato qualche minuto fa, l'istituto del richiamo, prevedere strumenti di controllo nell'esercizio del mandato parlamentare da parte del popolo sui parlamentari che stanno appunto... Certo, se non cambiano la legge elettorale... Il cambiamento della legge elettorale, noi abbiamo una legge elettorale che ha i limiti della democraticità e della costituzionalità, l'attuale legge elettorale, per cui chi ha il 30% o anche di meno teoricamente può poi il 51% o il 55% dei parlamentari alla Camera. Siamo ai limiti della democrazia e molto di quello che è accaduto in questi giorni, il disastro parlamentare che è accaduto in questi giorni, dipende anche da questo abnorme gonfiamento giunto al partito rispetto al numero di voti che ha effettivamente ricevuto. Però è stato un po' bene a tutti, diciamo. Certo, quindi ci sono problemi come dire, che vanno molto al di là del voto elettronico, diciamo. Quindi il problema che oggi l'Italia deve affrontare come paese, come sistema, è quello di adeguare il suo sistema politico in modo, come dire, complessivo. Questo riguarda il funzionamento delle Camere, questo riguarda la legge elettorale, questo riguarda i poteri del governo rispetto alle Camere, questo riguarda il bicameralismo perfetto, il fatto che noi abbiamo un duplicato, Camere e Senato, che esercitano le stesse funzioni con un allungamento dei tempi che ormai è diventato un fenomeno patologico e presente soltanto in Italia rispetto a tutte le altre grandi democrazie occidentali. Quindi il problema è molto più generale. Quindi se lei fosse stato, per paradosso, professore, fra i 10 saggi, quali sarebbero state le soluzioni che avrebbe proposto? Innanzitutto introdurre una qualche forma di presidenzialismo, o attraverso una premiership più forte, oppure attraverso un sistema di semipresidenzialismo alla francese. In secondo luogo, ovviamente, la modifica della legge elettorale, inserendo il mio sistema preferito, un doppio turno alla francese. Comunque di nuovo collegi uninominali, semmai con una piccola correzione proporzionale, però certamente ristabilire un rapporto tra eletti e territorio, questa è una cosa fondamentale senza della quale non si va avanti, rivedere radicalmente il bicameralismo e insieme con questo, come dire, prevedere strumenti per cui si può avere un controllo più forte da parte dei cittadini sui propri parlamentari, per esempio con l'istituto della recovery che è stato prima ricordato, se ne possono prevedere altri, limitare il potere dei partiti e regolare per legge il funzionamento e la vita interna dei partiti, cercando di ristabilire un rapporto che si è completamente perduto tra partiti ed elettori, tra vertici dei partiti ed elettori, tra vertici dei partiti e popolo. Mi sembra molto, molto chiaro, professore, quello che dice lei, e risponde perfettamente a quella che poi è una tendenza istintiva della popolazione, avendo in mano strumenti che apparentemente ti mettono in collegamento, ti creano un prolungamento della tua personalità, ti permettono di gestire contemporaneamente decine di migliaia di contatti, che è questa mancanza di contatto con il territorio che dovrebbe rappresentare comunque l'alimento base di tutte le democrazie, viene ricostruito attraverso una sorta di territorio inesistente, di territorio incorporeo, che è quello della rete. Melog, la realtà condivisa. Vittorio, buongiorno. Vittorio. Complimenti per la trasmissione. Sì, contro la democrazia diretta, perché? Io dico contro la democrazia diretta vuol dire che penso che in un sistema complesso come quello, come la vita di oggi, come la gestione di un grande paese, noi non possiamo pensare di intervenire direttamente in ogni questione, in ogni singola questione. E poi c'è un fatto di fondo, penso che la mia classe politica, la classe politica che dirige questo paese, deve avere una sua visione, e io giudicherò quella quando li leggo, quindi in maniera preventiva, e poi in maniera successiva quando non li dovessi rileggere, qualora non avessi apprezzato la loro. Ma io voglio sentire una visione da parte dei miei politici. Che differenza c'è fra una persona che sta nel luogo di rappresentanza massimo, che è appunto il Parlamento, qualsiasi chiacchiera da bar che può esprimersi e dire il suo parere? Però sa qual è il problema? È che bisogna studiare per poter esprimere un punto di vista, e non sempre in generale ci sono gli strumenti così diffusi e così condivisi di capacità di analisi delle complessità nelle più varie discipline. Verissimo, a maggior ragione la democrazia diretta non mi sembra, nel senso, la gestione diretta al Movimento 5 Stelle delle tematiche che si presentano. Ma lo dicono solo loro, guardi che non ci crede nessuno. Noi stiamo dicendo la via elettronica alla democrazia significa semplificare attraverso gli strumenti elettronici e digitali alcune procedure di voto, ma le procedure rimangono sempre quelle, rimangono sempre sotto controllo, devono sempre ottemperare quelle che sono ancora, finché ha un valore, le regole della Costituzione. L'articolo 48 della Costituzione dice che il voto deve essere libero e segreto. Se il voto non è libero e segreto, non è un voto valido. E il voto per esprimere i propri rappresentanti attraverso un telefonino, attraverso un computer, difficilmente allo stato delle cose può essere libero e segreto. Professor Marco Mancarella, ritorniamo allora con lei, che rappresenta l'esempio più concreto di questo tentativo. È una strada lunga, mi sembra, non demagogica. Infatti in Salento la stanno facendo praticamente in maniera molto sommessa. Lo si sa perché ne stiamo dando noi notizia, non ho visto grandi notizie negli organi di informazione nazionali su questo fenomeno. Le posso fare una domanda? Le persone sono molto scandalizzate, ma questo è un pregiudizio che potremmo sfatare, sul fatto che l'esempio venga dal Messico. C'è uno Stato che si basa sul narcotraffico, ci può dare lezioni di democrazia? Vediamo di specificare meglio, perché le parole sommare non danno mai la lettura giusta del problema. Sì, sì, io le posso dare un dato. I paesi che più stanno puntando sul voto elettronico, oltre al Messico, sono altri nei quali probabilmente il sistema politico non è eccessivamente stabile, ci sono problemi di violenza, insicurezza sociale e quant'altro, tipo ad esempio il Brasile. Consideri che in Brasile, in Amazzonia, si vota elettronicamente con un sistema diverso rispetto al Messico, ma gli abitanti dell'Amazzonia votano elettronicamente, o in Venezuela o in Colombia, dove un caro amico senatore colombiano ha appena fatto approvare un codice elettorale elettronico, e parliamo della Colombia, che è tristemente nota per altre circostanze. Veramente è uno stato narcotrafficante. Ecco. Assolutamente. Basato sul narcotraffico. Poi, quindi questi paesi, che sono paesi anche comunque considerati emergenti, soprattutto dal punto di vista economico, stanno investendo perché è una sorta di scommessa che stanno facendo, cioè puntiamo su forme innovative di democrazia per uscire da un impasse istituzionale, politica e sociale nella quale ci troviamo, e secondo me la stanno vincendo questa scommessa, assolutamente. In Brasile 136 milioni di persone possono votare elettronicamente, compresa l'Amazzonia. Poi ci sono paesi anche diciamo più evoluti, possiamo dire, perché storicamente collocati in una zona diversa del globo, tipo l'Estonia, che oramai si è avvicinata all'Europa, dove si vota da casa. Il sistema è quello quindi dell'i-voting, quello del voto via internet. Ecco, questa è diciamo la circostanza che sembra appartenere a un futuro lontanissimo e remoto, che forse però darebbe soddisfazione a quanti pensano che in realtà è ora di passare a una forma digitale, elettronica, diretta, social 2.0 del voto. Quindi esiste la possibilità concreta? In Estonia lo fanno, però non è un voto presidiato, come diceva giustamente lei, di conseguenza una certezza e quindi un rispondere, per dirla all'italiana, all'articolo 48 della nostra Costituzione, che dice che il voto deve essere sicuro. Ma se io tengo un canne mozze puntato alla testa della vecchietta che sta votando a casa con lo smartphone, come possono sapere? Non c'è un motivo di controllo, loro utilizzano una sorta di firma digitale, si come fidano. Quella che utilizziamo noi, ma nulla più, infatti c'è anche un contrasto aperto in Estonia sul punto. Poi vediamo di capire nei punti, l'urna elettronica, come diciamo darebbe soddisfazione a tutte le domande che si stanno facendo i nostri ascoltatori, il controllo, come si fa a gestire l'anonimato nel voto elettronico? Semplice. Lei consideri un normalissimo seggio elettorale, quello analogico, basato sulla carta, l'urna. La stessa identica cosa, solo che al posto dello spazio nel quale esprimere il proprio voto cartaceo, vi è un'urna elettronica rivolta verso il muro, di conseguenza è assicurata anche la segretezza del voto, un touchscreen e si esprime il voto. La grandezza dell'urna elettronica che stiamo utilizzando noi è che risponde al nostro criterio costituzionale che è ancora un po' legato alla carta, cioè dobbiamo avere una controprova del voto. Una ricevuta, si è stampata una ricevuta. Sì, ma rimane dentro l'urna, è chiusa da un sigillo. Solo in caso di contestazione il presidente del seggio può rompere il sigillo e il conteggio della carta prevale. Se qualcuno dicesse sono arrivati gli hackers e hanno cambiato il voto, c'è la controprova cartacea. Ma gli Iaia se non posso intervenire. Sì, vabbè, ma oggi vengono evocati a ogni piezo spinto, quindi... Sì, non è un voto in linea, la macchina è offline fino al momento della trasmissione del dato. Nel momento in cui trasmette il dato, quindi nel momento in cui è chiusa e si chiude il seggio, il dato transita sulla linea più sicura in Italia, che si chiama sistema pubblico di connettività, che è quello nel quale viaggiano i dati del Ministero dell'Interno. Quindi al momento non ci sono stati attacchi di hacker o cracker, quindi è un sistema ultra sicuro. Ecco, se uno volesse votare scheda nulla, cosa può fare? Ha una serie di emoticons che può appiccicarci sopra? Come no, semplicemente, per esempio nel caso del referendum consultivo nostro, il referendum prospettano una risposta sì, no, ma abbiamo aggiunto anche scheda bianca, non scheda nulla, scheda bianca. Il poter votare scheda bianca è un diritto, il poter render nullo il voto non è un diritto. Andrea Rossetti, vediamo con te come al solito di tirare le fila su quanto abbiamo detto questa mattina. Abbiamo fatto un po' più di chiarezza su quello che allo stato delle cose e della conoscenza tecnologica può essere inteso come partecipazione diretta, che non è il voto fatto da casa o il voto fatto attraverso il telefonino. Certo, la partecipazione diretta, peraltro, come ha sottolineato anche qualcuno, come hanno sottolineato alcuni ascoltatori, è anche faticosa, è anche onerosa. Immaginate davvero di dover tornare a casa tutte le sere e votare per qualche cosa, ma francamente secondo me alla lunga la routine ucciderebbe il significato del voto. C'è un esempio su questo, no? La Svizzera è uno dei paesi al mondo in cui c'è il maggior numero di referendum, quasi su ogni cosa dell'aspetto della vita dei cittadini, e però è anche il paese al mondo in cui la partecipazione elettorale è minore, perché alla lunga le persone banalmente si stufano di votare, si stufano anche di restare informate per poter partecipare in maniera sensata al voto. Quindi io credo che al di là di ogni considerazione di carattere tecnologico, al di là delle meravigliose tecnologie che oggi abbiamo a disposizione per votare, l'idea di rappresentanza è fondamentale nelle democrazie moderne, come d'altronde diceva anche il professor Schiavone. Dobbiamo riformare la legge elettorale per avere maggiore rappresentanza. Per questo per avere maggiore rappresentanza si possono usare anche strumenti elettronici, ma quelli intervengono sicuramente solo in seconda battuta. Grazie Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, a domani.